voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Abruzzo, terra di vini, dal piccolo al grande produttore, di Alessandra Tedesco. Si stanno facendo strada in Italia e soprattutto nel mondo i vini che vengono dall'Abruzzo. Meno famosi dei toscani o dei piemontesi, stanno conquistando anche i palati più sofisticati. Il secondo vino rosso più venduto negli Stati Uniti è un Montepulciano d'Abruzzo. Ci sono aziende di tutte le dimensioni con un elemento in comune, il forte legame con il territorio, come del resto accade sempre per le produzioni agricole. Radici in Abruzzo dunque, ma vendita soprattutto all'estero, per la maggior parte delle imprese. Le realtà delle aziende vitivinicole abruzzesi sono tante. Ci sono i grandi, ma anche i piccoli e piccolissimi, che spesso si riuniscono in consorzio. L'azienda Chiusa Grande si trova a Nocciano, in provincia di Pescara, e produce vini biologici. Ha 13 dipendenti e un fatturato di 2 milioni e mezzo di euro. Per il proprietario Franco Deusanio, il vino è una vera e propria filosofia, nel senso che dietro la creazione di un vino c'è un pensiero, una scelta, una filosofia, appunto. Ha scritto anche il libro Vino Sofia, Vino Follia. Quando progetta un vino, prima decide le emozioni che intende suscitare, poi sceglie le caratteristiche organolettiche. L'azienda è nata nel 91, ma solo nel 99 ha iniziato a vinificare le proprie uve, come racconta Franco Deusanio. L'azienda Chiusa Grande è nata nel 91, però è nata perché io sono un agricoltore, figlio di agricoltori, quindi i miei genitori, diciamo, mi hanno allevato con poco latte e tanta presenza nel vigneto, e quindi, diciamo, c'era già un'azienda viticola di famiglia. Il mio mondo ha sempre orbitato intorno al settore vitivinicolo, e quindi poi ho concretizzato la mia aspirazione di trasformare le mie uve e quindi accorciare la filiera per arrivare direttamente sul mercato. Volendo fare dei vini anche varietali, cioè che portino il nome della varietà, del vitigno sull'etichetta, ho fatto la linea della vinosofia, cioè la linea della saggezza dedicata ai vitigni autoctoni, perché la saggezza ti consiglia di coltivare i vitigni della tua terra che si sono adattati dopo secoli di selezione e di pressione genetica. Però ho fatto anche vino follia, cioè non tutti possono conoscere, magari, che ne so, gli abitanti del Minnesota che conoscono il nostro pecorino, la nostra passerina, sicuramente sono pochissimi. Quindi, diciamo, ho fatto la vino follia dedicata ai vitigni internazionali perché, come dire, sono costretto a entrare nelle logiche della follia, cioè le regole della globalizzazione, proprio per potermi proporre un po' a tutti, insomma. L'azienda Chiusa Grande, dunque, oggi produce sia con vitigni autoctoni che internazionali. L'85% del fatturato arriva dall'export. In pole position gli Stati Uniti, poi il Nord Europa, soprattutto la Svezia e infine in Giappone. Le difficoltà maggiori si sono avute nel 99, quando è iniziata la produzione in proprio. La difficoltà è stata il primo anno, perché il 99 per noi è stato un anno di piogge terribili. Quindi vinificare tutte le uve è stata un po' una follia. Ha messo a dura prova, diciamo, tutti i miei convincimenti, perché la mia azienda è un'azienda biologica e vinificare tutta la produzione in un'annata con tante piogge, con problemi di botrite, quindi non avere la possibilità, essendo nel biologico, l'inizio del biologico, di poter ritagliare i miei vini con altri vini, cioè, mi rendo conto che è stata veramente la dimostrazione che ho aderito al biologico per una convinzione intima. Solo perché ero fermamente convinto, penso che tanti altri avrebbero deciso di lasciar perdere il biologico, le certificazioni, per risolvere i problemi spiccioli del bilancio. Il biologico, dunque, per Chiusa Grande è una scelta precisa, non un'opzione fra le tante. Produrre in questo modo costa di più e bisogna essere disposti a ragionare sul lungo termine. Ancora Deusanio. Per me il vino è una storia semplice, perché viene dal mondo agricolo che è fatto di cose semplici. Si coltiva l'uva, si spreme l'uva, si fa il mosto fermenta, diventa vino. Quindi anche il miglior vino al mondo deve costare pochissimo, perché non si possono caricare i prezzi del vino di sovrastrutture legate a strategie di marketing particolari. Soprattutto io da sempre ho cercato di fare una cosa, di puntare a pareggiare i conti nel medio-lungo termine. Ho sempre puntato a fare prodotti di grande qualità con dei prezzi accessibili, pensando di arrivare magari nel tempo ad avere i giusti utili. Comunque, se devo essere sincero, il fatto di coltivare col metodo dell'agricoltura biologica qualche volta porta sicuramente qualche costo in più, qualche complessità, ma non sempre, perché ci sono anche delle volte in cui magari si risparmia perché si usano dei prodotti naturali che costano meno. Quindi diciamo che posso accettare una differenza del 10-20%, sicuramente quando le differenze vanno oltre il 10-20% o ci sono dei problemi organizzativi nella distribuzione del biologico, oppure magari il produttore forse fa delle scelte tutte sue che rispetto, ma che sinceramente io non condivido. C'è una storia di emigrazione e il sogno di tornare in patria dietro la nascita dell'azienda Il Feuduccio di Orsogna, in provincia di Chieti. La famiglia Lamaletto, emigrata in Venezuela, torna in Italia dopo 40 anni e fonda nel 95 l'azienda agricola, con capitali privati e un piccolo aiuto dallo Stato. La prima vendemmia viene fatta 3 anni dopo, nel 98. Così Laura Lamaletto, oggi export manager de Il Feuduccio, ricorda le origini e i suoi genitori. Loro fanno parte di quella storia dei migranti che del dopoguerra hanno abbandonato l'Italia per trovare fortuna all'estero e si sono arrivati in Venezuela. Dunque noi siamo in Italia da oltre 35 anni e papà aveva questo sogno nel cassetto di tornare un giorno e aprire un'azienda agricola. Allora, l'azienda, l'idea principale è stata di mio padre. Papà ha sempre avuto questo sogno nel cassetto e io devo decisamente ringraziare lui perché mi ha dolcemente convinto a spostarmi da Firenze all'Abruzzo. E devo dire che la cosa più stupefacente di tutta questa avventura è che mi sono ritrovata finalmente a casa. Ho ritrovato le mie radici che ricordavo di ogni viaggio che quando tornavamo dal Venezuela ogni estate. Ed è stato bellissimo, perché sono finalmente a casa, mi sono sentita a casa e non ho più voglia di andare via da qui. Le difficoltà emergono subito, già dalla prima vendemmia, ma la famiglia si impegna tutta insieme a superarle. La cosa buffissima è stato proprio durante l'anno della vendita della prima vendemmia, perché nel 95 si fonda l'azienda e nel 98 facciamo la prima vendemmia. Ovviamente i vitigni erano molto giovani e in quel periodo avevamo appena 30 ettari e quindi siamo riusciti a imbottigliare sì e no 6.000 bottiglie. Nel 2001 abbiamo cominciato a vendere le bottiglie, dopo 6 mesi non avevamo più niente da vendere. E lì è stato lo scoglio più duro, dover aspettare, perché la nostra filosofia è mantenere molto tempo, quando dico molto tempo, minimo 2 anni, massimo 4 anni il vino ad affinare in bottiglia, proprio per fare arrivarlo pronto alla tavola di qualsiasi persona che desideri assaggiarlo. E quindi sono stati anni duri perché abbiamo dovuto aspettare quasi 1 anno e mezzo per riproporre il nostro vino. Oggi l'azienda produce diversi vini: il Cerasuolo DOC rosato, 4 tipi di Montepulciano, un pecorino e un passito, ma produce anche un piccolo quantitativo di olio di una varietà in estinzione. 14 dipendenti, un fatturato di 700.000 euro, di cui il 70% arriva dalle esportazioni, come racconta ancora Laura Lamaletto. Allora, la cosa veramente interessante è che siamo stati sempre scelti. Il primo paese che ci ha scelto nel 2001 sono stati gli Stati Uniti. Siamo sempre con lo stesso importatore e ovviamente rappresenta il mercato più interessante. E poi siamo in Venezuela, ma siamo anche in Europa. Siamo in un paese dove molti faranno un po' di naso storto, la Francia. Ottime esperienze, imparo molto da loro e devo dire che loro non hanno mai dato importanza ai premi. Ma la vendita è a tu per tu. Noi viaggiamo con la metropolitana, con le 6 bottiglie, con l'importatore che è assolutamente parigino, e facciamo degustazioni. Loro ci dicono come lavorate i terreni, come fate la potatura, come fate la raccolta, assaggiano il vino e comprano. Quando siamo all'estero siamo trattati come se fossimo dei produttori veri. Io mi sono sempre sentita molto orgogliosa di essere imprenditrice agricola, di lavorare nella terra. Nella mia regione mi sento meno orgogliosa, mi ci fanno sentire meno orgogliosa e questa cosa non mi piace. Io sono felice di lavorare, sono felice di essere cafona, mi piace. E sono una cafona che parla un sacco di lingue e mi piace ancora di più. E mi piace molto rappresentare la mia regione, soprattutto la mia provincia, il Chietino. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.